perché 3 ampere mi sembrano poche per alimentare l'apparecchio che ho io, e anche perché quando vado con la portante qui si abbassano tutte le luci dell'apparecchiatura. Vabbè, sicuramente non è l'ideale, comunque tanto non è che ne assorbi più di 3 in ogni caso. Se ne hai più ne hai è meglio, non ti preoccupare, se ne hai più è sempre meglio averne in più che in meno, perché poi magari ti scalda molto di meno l'alimentare. Comunque a parte mia, un segnalone, radio fortissima, niente da dire, tutto ottimo. Superiamo un sacco di persone che sono in posizioni sicuramente migliori delle tue. Infatti stranamente non capisco come sia così forte. Grazie Robè. Vedi, per dire, Robè, a me mi arriva più bacio di te. A te lo prendete a me lo ricominci. Io quello, non, per me è inspiegabile quello, già, tu c'hai una posizione molto più favorevole rispetto a me. Se tu non ci credi, vieni e te lo faccio vedere qua, già. C'ha quasi lo stesso segnale tuo. Forse per certi versi un pochettino più di te, di quando vai con qualcosina di più, diciamo, dai. Perché lui c'ha, tu quando c'è qualcosina di più arrivi quasi 9.30, lui lo stesso segnale è tuo. Se no quando sei un po' più basso, lui è più forte di te. La posizione che conta. È facile quello lì. Comunque a me va benissimo, arriva forte in radio. Probabilmente la posizione non è adatta alla mia. Per te magari è più positivo. Comunque la domanda con cuore, ricordati una cosa, che sta sempre positiva, perché ce l'hai voi l'antenna e so cosa vuol dire. Posso, comunque qua il segnale è molto forte, e infatti mi sono meravigliato quando ho dato il rapporto tuo, ho detto a Gianni di arrivare a fondo scala, io prevedevo invece stranamente le onde sono strane molte volte. Comunque buonasera Natalino, buonasera Pierpaolo, buonasera Gianni, Giuseppe e poi non so chi c'è, anche Antonio, se c'è anche Antonio, buonasera a tutti, facciamo girare, dai, che io sono entrato senza avere fatto ascolto, cioè l'ho fatto ma un attimino, dai, di nuovo chi c'è, iniziamo da Antonio, dai. Aspetta, Roberto, ci siamo sempre in mi sono abbassato di radio? Sì, di colpo, poi c'è ripreso. Forse non ho premuto bene il coso, il tasto. Adesso tutto a posto? Buonasera Natalino, da parte di Giuseppe Tornado, cambio. Non ti avevo sentito entrare. Perché sono entrato senza il break, ma non c'è il problema. Qui arrivi 9.15, ma quasi 9.20. Va benissimo Natalia, anche tu stai arrivando forte qui, sei a 9.20 e Radio 5 è bella limpida, cambio. Giuseppe, dopo voglio fare una prova già, che mi aveva dato quello piccolino col frontalino per vedere come va la radio qua. Giuseppe, avanti. E Gianni quando ti arriva per fare un confronto, e poi dimmi che tipo di antenna stai utilizzando, Mantova che cosa? Mantova 1, Robè. Sì, a Gianni prova a parlare tu a vedere quanto gli arrivi. Prova a vedere, dai, dai. 9.20 e Radio 5 super chiara, cambio. A me quanto mi avevi detto che arrivavo, scusa? Allora, tu sei adesso 9.25 e Radio 5, stai salendo comunque. È strano, vedi, è una cosa stranissima, pure lui è molto, molto più vicino sopra, già c'ha una direzionalità più per altre zone che per quella bassa, boh, non lo so, forse perché c'è qualche palazzo che lo disturba, no? È una cosa molto strana. È buffo. Diciamo che lui c'ha anche l'antenna un po' bassa, vabbè che non c'entra nulla, però il segnale magari l'avrebbe aumentato ancora di più perché la zona è buona, se avesse alzato di più l'antenna, ma vabbè quella è una cosa sempre che si può fare in seguito. Antonio dice di arrivare a fondo scala, così è Antonio? No, non proprio a fondo scala, 9.25 passate mi arriva, quasi a fondo scala. Beh, anche a te ti arriva più forte di me, è strano, come mi arrivano 15 veramente, non so scherzare. Però Gianni, attenzione, non è detto, perché bisogna vedere anche da giornate a giornate, perché anch'io mi sono reso conto che niente, modulando in macchina ci sono giornate che arrivo in certi posti a 9.15 e ci sono giornate dove c'è meno magari portabilità che arrivi a 7, arrivi a 8. Guarda con questo apparato come ti arrivo. Oh, Tornado, guarda a vedere. Forte adesso. Quello che stai saturando, Gianni? Non lo so. Tu me ne stai arrivando 9:20 lì, vuol dire che la posizione è molto aperta per te. Comunque io ho girato tutta la città e lui ha un buon segnale da tutte le parti, scende 9:05 ma al massimo, poi risale 9:10, 9:15, sono andato a Porta Sant'Antonio, sono passato alle Conce, ho girato, insomma, ho guardato un po' il segnale come andava e farei, dico la verità, tornato, l'antenna va bene, lascia la stare così, non dare tarissimo e continua ad andare. Attenzione Gianni doppio room, comunicazione di servizio, mi stai arrivando a fondo scala, che cacchio è successo? Perché deve essere la parte come scalda o metà di fla. Niente barchini, adesso basta. Gianni, 9:30 picchi positivi sei adesso, però stavi saturando in un momento. E ti, a te come ti arrivo? Buonasera. Ma io non parlo da nessuna parte. Sì, arrivi. Non ti dico, mi arrivi forte al cuore perché sei un maschietto, se altro la vedete. Ti ho mollato poco fa già, perché con la pasta mi sono prolungato, Sì, vabbè, non c'è problema, ti già le capisco queste cose, uno può avere problemi e cose. Andavetti. Ma una bella rotta stasera, mi sta piacendo, va. Pierpaolo, i primi. Cappa, va bene. Il più basso di tutti sono io, 2:20, va Giuseppe. Ma che il più basso di tutti ero io, Pierpa, ma quando mai? Ma quando mai? A parte il fatto che non sei basso, che qui mi stai spaccando i timpani, ti sento bello forte. E niente, e ricordami che ti devo dare sempre con la comunicazione là, Pierpaolo, perché come ti ho detto poco fa, è successo qualcosa qui all'apparecchiatura che non mi è piaciuta niente, cambio. Aspetta, Pierpaolo. Dimmi. Adesso ci avevo l'occhio sullo smitter, è passato da 9:15 a 9:25, di colpo. Capo, alimentazione, dai. E guarda adesso che ha scaldato il mio segnale, a vedere com'è adesso, è caldo. E c'è a me, Pierpaolo? Capo, guarda a vedere se ha scaldato ancora. Ma sei 9:10 e radio 5, Pierpaolo, bella chiara. E se sta scaldando allora? Sì, diciamo che va bene, speriamo non scaldi il mio come ha fatto poco fa, dai, per fa cambio. Ha scaldato poco fa? Ma è successo un qualcosa, guarda, io credevo di aver bruciato tutto e non riesco ancora a capire cosa sia successo, Pierpa. No, spiegami cosa è successo, vai. E niente, si è sentito come un rumore all'interno e del fumo, ho staccato subito tutto e l'ho lasciato riposare 5 minuti e credevo di non rientrare più. Del fumo? È positivo, Pierpaolo, del fumo dai lati dell'apparato. No, non ci credo. Figurati, guarda, c'ho il cuore sotto le scarpe perché non ci credevo manco io. Sta funzionando, io credevo di aver, non so se sono stato veloce io a staccare tutto, però è stato come una piccolissima esplosione cuffa dentro, e dopodiché è uscito, sì, del fumo, e diciamo non poco, dai. E vorrei aperto a vedere cosa è successo allora, se c'è stata un'esplosione. Sì, diciamo una piccolissima, cioè se proprio si è distinto chiaramente non so manco come spiegartela, però io l'ho sentita chiaramente dentro, come un qualcosa che è partito, e niente di strano che possa essere, che ne so, un condensatore, però non riesco a capire che cosa sia, perché sto usando tutte le funzioni e tutto va. Giuseppe. Comandi. Ma con quanto lo stai alimentando? Perché con il computer normalmente c'è una tensione più alta, 15-18 volt, non è che lo stai sovralimentando, no? No, negativo, perché questo che ho io va in automatico da 12 a 24. Vuol dire va in automatico? Sì, va in automatico da 12 a 24. Non vorrei che sia partito proprio quello, hai capito? Non vorrei magari trovarmi una sorpresa dovendo alimentare in barra pesante a 24 che mi esplodesse veramente il baracchino. L'alimentazione, cioè il baracchino va da 12 a 24, non l'alimentatore, non riuscivo a capire. No, l'alimentatore è tutto a posto, quello che è successo dentro l'apparato, perché io quando l'ho staccato, ce l'avevo in mano, è proprio uscita del fumo dai lati. L'alimentatore, vai, che è arrivata una sovratensione, non lo so, stai attento, perché ci sono computer che hanno anche tensioni più di 24 volt, in certi tipi di computer. Non c'è scritto niente nell'alimentatore quanti volt ci sono. Sì, ci sono. Non attaccare in barra pesante, ti esplode il baracchino, è sicuramente partito qualcosa nell'automatico che ti fa da 12 a 24. Che Natalia, è quello che stavo pensando anch'io, e niente, bisogna che lo porti a farlo vedere, perché non è possibile, mi hai capito? E tu non attaccare nella barra pesante, te lo sicuro. Forse potrebbe anche sciogliersi tutto. Scappa Natali, farò così, dai. Chi è che lo può controllare qui in zona? Non ci può trovare con l'antenna. Ah, scappa Gianni, allora lo porto lì da lui, perché ti ripeto, qualcosa è successo, io non so cosa sia successo dentro questo apparato, però proprio si è sentito chiaramente il botticino, diciamo, dentro, come un qualcosa che è partito. Avete sciolto anche qualche filo, bisogna controllare, bisogna aprire e controllare a vedere cosa c'è. Lo so Gianni, però bisogna, che ne so io qui, oggi è sabato, domani è domenica e chi lo può controllare questo apparecchio? Se vuoi dopo quando vado a portare quella cosa lo controllo io, dai. È positivo Pierpa, dai, ti aspetto a braccio aperto. Ho paura che sia il contrario comunque, sta alimentando il 24 e il 12 no. E quello l'ho pensato anch'io, perché che partisse il 24 con questo alimentatore qui, anche a me è sembrato strano, cambio firma. Secondo me l'ha sovralimentato con quell'alimentatore, non era 20 forse? Ti sarebbe già partito, perché se sarebbe entrato in funzione i 12, te l'avrebbe già fatto partire il finale come niente. Ho paura che invece stia andando in contrario, stia andando i 12, stia andando il 24 e il 12 no. Perché quell'alimentatore c'ha 20 volts, a 20 volts ti avrebbe già bruciato tutto. Kappa Pierpaolo, l'ho pensato anch'io quello. Cioè questo fatto, se c'è un alimentatore che sta andando a 20 volts, se sarebbe stato in funzione il 12 te l'avrebbe già bruciato. Evidentemente sta funzionando il 24 piuttosto che il 12. Confermo Natali, confermo. Natalino. Ciao Pierpaolo. 6-1. Sì. Prego. Stellette sta attaccandomi Pierpaolo al coso, dove ne fa passare una? Se Falchetto, così ci dai rapporti. Avanti Falchetto. Buonasera, buonasera. Buonasera Falchetto e ben sentito da parte di Giuseppe. Buonasera Giuseppe, buonasera Gianni, buonasera Pierpaolo, poi mi sa che ho sentito Roberto, così è. Ma prova a parlare Pierpa, fa che così ti dà il rapporto di segnale che ha messo un'antenna nuova, guarda come lo ricevi tu e come ti riceve lui a te, proviamo un po'. Gappa di Roci, guarda 1-2, 1-2, 3-4. Nove di Santiago e 5 di radio per Falchetto, cambio. Roci, fa un passaggio tu. Sì, 1-2-3, prova avanti il Falchetto, come mi senti, cambio. Allora, Santiago 9, filata 5, 9-9-5, radio 5. Grazie Falchetto. Positivo, fate girare, dai. Poi qua per superare la Falchetto dovete mettere meno un chilo qua, tu lui è 9-35 qua. Io? Tu sei una bomba, no? Non so se hai fatto qualcosa, ma mi sembri più forte di ieri. Ah, negativo, sempre liscio. Se passo lì sotto, vedi cosa ti faccio, Roberto, ti spacco anche lo smitter. Per Paolo, mi ha dato già un tacchino e apparato, parte alle 9:20, prima alle 9:10, ma avevate combinato? Prima alle 9:20 ti ho detto deve scaldare questo qua, se l'ho detto anche a Giuseppe, deve scaldare. Cosa scaldare, finimi là. Questo è un altro apparato, ha attaccato qualcos'altro, dai, che da 9:10 a 9:20 non c'è niente per scaldare. Quindi in te avanti ha attaccato qualcosina. Oh, io, siamo durati, altro che ha attaccato qualcosa, E no, che da gente non ve niente da attaccato, e non lo dico così, chi non lo può attaccare io, giusto? Vabbè, guarda bene lo switcher. Pierpa, 6 a 2, cambio. A 2 sono, E la cosa attendi piano piano. No, è un tipo d'apparato, questo qua, se non scalda, non va. Chi lo conosce, lo sa, dai. Manni. Sì, dimmi. Aspetta che attacco l'857 e mi dici come si il radio qua in questo canale. Cava. Va bene. Buonasera Lattarino. E riprendo un attimo io, faccio 5 minuti di bianco e dopo sono con voi, cambio. Positivo. Roberto! Ma sono mirato per Luca che la messa di 2-0, ci arrivi se chissano che ci arrivi in Coppa UEFA. Roberto! Dimmi per fa. Qua adesso ho attaccato 500 watt, quando ti sto arrivando? 9,80, mi ha fatto fare lo giro dello smitter e si è caputato il baracchino. Cazzo, bollottino! Tino, ci sei ancora? C'era anche Antonio, o sbaglio? Gianni! Dimmi, Nattalì! Guarda, questo è l'857, ma sta uscendo in radio. Caspita, buono! Perché c'ha tutti gli affari separati, questo per regolare. Se voglio andare nel SSB, devo regolare quello dell'SSB, adesso me l'ho tutto regolato. Buona, no? Va già. Gara, va. Per pa. Che la vuoi andare lì? Perché io sono stato ad accompagnare Emanuela. Anche la ci vuoi andare, tardi? Tardi, no. Io devo mangiare anche. Beh, anche io. Ci prendevamo una pizzetta al taglio, due pizzette al taglio. Però guarda, io per ovvi motivi, perché devo fare la punturina e devo mangiare per forza qua, perché non è che posso farmi la punturina in strada. E devo farmi quella lì, se no avrei mangiato qualcosa anch'io volentieri fuori, ma no, devo fare quella. Va bene, là. Sarà una compagna di Emanuela, poi ci sentiamo. Scusate, io chiudo qua e vado in macchina. È la 54esima volta che esco da casa. Scusa, ma non sei già uscito a accompagnare? E a prendere a Marco, se ti devo accompagnare là. Ciao, cava, io vai, non altro là, io vai. Ciao. Vabbè, ciao. Sempre maldonato, aiuto, prendi la macchina e vai, cosa fai lì fermo, aiuto. Ci sta bene, ha detto. Ha mai da poco. Già mi ha lasciato un poco, ci pensa mia moglie quando mi vede a letto a farmi alzare. Giusto, giusto, signora, giusto. Vedrà non ci ha fatto bene. Ah, sei vecchino, bella amica. Io sono d'accordo con la signora, io pesami, vai. Sentiamo dopo, cosa avete detto così? Niente, Roberto, te lo spieghiamo un'altra volta, dai! Grazie, ci vediamo magari dopo, ciao a tutti! Buon appetito, buona pizza, buon giunto! Ehi, grazie, ciao! Ciao Roberto, ciao! Ciao Roberto! stanotte. Su 40, come ti? Ma siamo sul 40, ho detto, Chiavarocci. Che cosa ne so, voi mi ci avete portato sul 40? Cosa ne so io, perché, perché no, oh, io qua vi ho trovato. Chiavarocci. E me, per qua, come va quello piccolino? Chiavarocci, Chiavarocci, sì, 9, quasi 9.15, a picchi positivi. Radio 5. Ma adesso sono l'altro, no? Quando ho usato quello piccolino, come usciva del radio? Guarda, il signore io tocco qua, allora non l'ho guardato, non lo stavo guardando la tarina, non lo so. Ma la radio mi interessava. No, la radio era buona, era la radio andava bene. Non lo so, non ho guardato il segnale, ma presumo che lo percorso lo stesso. Non posso guardare niente più. Scusa, è stato un brutto. non per rompere il capo. È positivo, ma il capo della rimettazione. Già si è aggiusta. Da parlare là. Quando mi fermo lo sistema là, sto andando un attimino nel volteggio. Ben risentito. Senti, guarda, non è da 9.25 5 Massimiliano, cambio. Non c'è problema. Ok, salutoni Roberto. Tutti spariti? No, no, noi siamo qua, non c'è problema. Io stavo giusto ingoiando un morsettino. Paroci. Un morsettino allora, dai. Ma c'è una papola che si sono avanti, eh? Avanti, avanti, c'è posto, avanti. C'è posto per tutti, cara gara. Per belli e brutti, cambio. Oh Gianni, ma tu sei in giro ancora, cambio. Sto accompagnando mia figlia, tra poco rientro di nuovo. Scappa oggi, ha detto ora, insomma. Come mi ascolti, Riccardo? 9:25, Radio 5, super squillante, cambio. Da lei, vuol dire che sta andando bene la situazione? Diciamo che la situazione è sempre sotto controllo. E Pierpaolo è in zona? Pierpaolo è a casa sua, penso ancora. Dopo dobbiamo venire, dai. Dopo che ci mangiamo un boccone veniamo, se non disturbiamo. Ma assolutamente Pierpaolo, non c'è nessun problema, anche perché è un grandissimo favore che mi state facendo, se almeno riuscire a capire cosa è successo. Je m'appelle Jean. Je parle français. Tu sei Pierpaolo? Sì. Ho fatto salire su. Cava. Tu apparato? Quando siete sul limite, se mi fanno squillo, così ci faccio un attacco. Gamba, gamba, ti avvisiamo, ma non sappiamo se. Bene. Voglio salire al pescatore, così lo conosco. Gamba, gamba. Non so se la moglie lo spinzaglia. Vai tranquillo Pierpaolo, ci sono io qui che diciamo domino la situazione, cambio. No, non so di che questo è un po' ma io sono che non so di venire con Gianni Pierpaolo, allora ci troviamo quasi ogni sabato su al quadrato. Ci farebbe piacere che salissi anche tu, così ti conosco, io sono Bulldozer. Va benissimo Massimiliano, non c'è nessun problema. Comunicazione di servizio per Gianni, dica a Pierpaolo che può aggiungere una crocetta, grazie. Non azzecchi una. Gianni, vigliacco. No, dai, vabbè, ok, dai. Come l'ho detto. Da me. Facciamo girare, dai, vediamo, Natalino riprendi. Già sono qua, non c'è problema, dai. Che se lo sappiamo. Si sta facendo delle cose, capisci? Va bene, chi c'è? Massimiliano, riprendi tu per far girare, perché non so chi ci sia, sono entrato 5 minuti fa. A parole, ora? Niente, solo c'è Falchetto, io sono partito adesso da Pradarieta. Prendi tu, fai questa per girare, eh? Gaffa che è positivo. Anda bene bene. Mi sento tutti belli, pomposi, carichi da sera, le radio a posto. Tutto ok. Riprendi e fai girare, dai. A parole, no, a me c'è il microfono che sta andando un pochino male. Massimiliano. Non lo so, là, no, ma lo controllo, me ne faccio le salvature. Non lo so, come mi sta ascoltando tu, Giuseppe? Ma io ti sento benissimo, hai una radio di 5 bella pulita, Massimiliano, è strano, e non stai manco gracchiando, e niente, e confermo bella pulita. Ma non senti nessun gracchiamento sotto, nulla? Negativo Massimiliano, direi una bugia se ti dicessi che sento un fruscio. È bella pulita, cambio. Ecco, già tu che conosci questi tipi di radio, com'è? A me sembra, non ho notato niente di anormale io Massimiliano. Sinceramente non ho notato niente, perché cosa ti sta facendo? Ho dovuto sollevare un pochino il carro perché se no mi ascoltavo un passo io. C'è qualche carro che. se lo muovo vi ascolto forte, e se lo muovo vi ascolto basso. La gara. Vabbè, ma sicuramente niente di particolare, va. Ok, dai, riprendi tu Giuseppe, fai girare. Sì, grazie Massimiliano. Ma Capri 2 stasera non modula? Non lo so, magari riesco a fare con lui per vedere se arrivi lì, già dovrebbe accedere. Penso che il problema del filo si sia risolto, dovrebbe riaccedere, almeno mi auguro, perché ieri era un po' disperato. Ma con le valvole poi aveva sistemato? No, negativo, però lui ancora non l'ha risolto. K. Però noi siamo sul 40, magari quello ci sta cercando, sul 21 e non ci sente, magari è lì. Infatti, se passiamo sul 21. Ma io non ti dico sul 21. Chiamala. Riprendo un attimo io, un secondo solo.